Gaza è una prima volta di tante cose che non si fermano a Gaza. Il termine giornalisticidio è stato coniato per questi bombardamenti che hanno preso di mira, individuando giornalista per giornalista, individuando le famiglie. Chi è rimasto vivo è stato delegittimato in modo che il tentativo di far emergere quello che stava accadendo a Gaza fosse ancora più difficile. E lo stesso tipo di atteggiamento ce lo ritroviamo qui. Chi cerca la stessa delegittimazione del personale dei giornalisti e del lavoro giornalistico è quella di cui stiamo parlando oggi, è la delegittimazione di chi ha provato a sostenere la verità attraverso gli unici occhi e orecchie che stavano provando a raccontarla da Gaza. Quindi il quadro è coerente, è lo stesso tipo di atteggiamento ed è assolutamente inaccettabile. In particolare, oltre agli esposti temerari, è stata delegittimata una campagna di raccolta fondi per il tentativo di aiutare i colleghi palestinesi, che noi rivendichiamo con forza. È una campagna che è nata dal basso, da numerosi colleghi giornalisti all'interno di un gruppo di operatori e giornalisti e insieme con la rete Novavaglio, Articolo 21, tantissime altre organizzazioni. Una campagna di raccolta fondi per tentare, in un momento in cui a Gaza c'era una fame conclamata, di tenere in vita i pochi colleghi che potevano ancora provare a raccontarci quello che avveniva all'interno. I fondi sono stati donati attraverso un IBAN dell'Ordine dei giornalisti, una delle rare occasioni in cui c'è stato un incontro tra l'istituzione e il sentire collettivo della comunità. L'Ordine dei giornalisti in questa situazione si è fatto interprete non solo di un gesto di umanità, ma di un gesto necessario per la maggioranza, la gran parte dei nostri colleghi in quel momento. Tanto per chiarire la strumentalità delle accuse rivolte verso questa campagna, ci tengo a indicare solo alcuni dei colleghi che in giro per il mondo hanno effettuato uguali donazioni: il Sindacato dei giornalisti del Regno Unito, della Repubblica d'Irlanda, dei giornalisti di Belgio, Spagna, Canada, Svezia, Norvegia, Slovenia, Croazia e l'intera American Federation of Labor, che è la più grande federazione sindacale degli Stati Uniti, hanno fatto uguali donazioni a quella che alle donazioni che sono state effettuate tramite la campagna di raccolta fondi Alziamo la voce per Gaza. Quindi è chiaro che questo movimento mondiale di sostegno per i civili e per la stampa libera, e in particolare la stampa che denuncia quello che sta avvenendo a Gaza e che poi ora abbiamo visto che era solo il precursore di ciò che sta avvenendo nel mondo, è un'accusa strumentale e politica. Zittire le voci che hanno raccontato la verità, ostacolando la guerra e il genocidio, è gravissimo ed è gravissimo ogni giorno di più per tutti.